Dove sono? Che cosa succede? Siamo in dove siete, amici? Nulla. Siamo qui. Eccoci. Sigla. E ben trovati un'altra volta, questa volta puntuali alle 17.00 di questo 5 febbraio 2022, incredibile, Radio Forte 100, cioè le Avengers, e con impeto, senza perdere tempo, saluto subito Silvano alla mia destra. Buonasera a tutti e forza Roma! Lo sapevo che ti abbassavo troppo il microfono. Come? E alla mia sinistra saluto Virginia. Ciao a tutti, finalmente puoi andare a dormire tranquillo, sono le 17.00. Siamo rilassati. Esatto, la mia pignoleria. Di seguito salutiamo anche la pignolissima Gabri. Buonasera, buonasera, dai, muoviamoci che c'è l'ultima puntata di Sanremo stasera, dai. Mamma mia, già cominciamo. Ma finiamo malissimo, prima. Malissimo. E andiamo a salutare Betta. Salve Salvino, vicino vicinino. Incredibile, e sempre nelle retrovie, nella postazione che ormai la vede affezionata, la professoressa maestra Viola. Ciao, ciao bimbi. Non dire così che poi vado subito a cercare i bimbi. E niente, che cosa succede quest'oggi? Siamo tutti così gonfi di voglia di andare a vedere, no, non è vero, di rubriche, di contenuti, perché? Perché per una volta, anzi no, di nuovo, dopo tanto tempo che facciamo puntate, come direbbe Gabri, scongiuse, abbiamo un tema, abbiamo quello che amo ormai chiamare spesso fil rouge. Come direbbe Jocelyn. Esatto, io campionerei comunque giochi senza frontiere, non si sa mai. Sì, in effetti questa cosa del fil rouge devo cominciare a pensarla, che sempre agli anni 80 attivi. Una bella sigla, dai. Sempre, comunque, una bella sigla lo anni potremmo, 80 lo con Jocelyn, ci sta tutta. Dimmi. Lo potremmo far dire a Julie quando ci viene a trovare. Perfetto. Chi più di lei? Assolutamente. La scrivo nella lista degli ospiti. Vai, vai. Comunque, il fil rouge, appunto, condiviso assolutamente dalla redazione di 100 Celle Avengers, quest'oggi è quello delle biopic. Che abbiamo già analizzato, pronunciarsi biopic, perché la prima cosa che ci siamo detti è come si pronuncia questa cosa e soprattutto da dove viene questo termine, perché lo usiamo, perché siamo giovani, perché una volta io vi avrei detto i film biografici, ma quelli fatti su un artista, cioè in particolare su un artista o su, e beh, si dice biopic perché gli Anglo Americans sintetizzano, questa è l'unica qualità che gli riconosco effettivamente comprovata, e quindi sanno dire quello che io dico in 100 parole con una. E quindi di biopic si parla perché mi è scattata così il ghiribizzo e ho rotto il cazzo a tutti quanti per parlarne. Non è vero, no, è assolutamente un tema condiviso, esattamente come i morti del 51 e i morti del 50 venuti prima. Cioè, rubriche che hanno stimolato la redazione, secondo me, non trovi? Barbaro. Ok, non ci sovrastimoliamo, Quanti diciamo... Prego. No, mi chiedevo quante persone componevano. La redazione è vasta, siamo sei, e c'è anche, diciamo, tutto il pubblico qua fuori, che adesso se ne sono appena andati, non potevate sentire, ci stavano degli schiamazzi che chiamavano l'inizio della nostra puntata, giusto? Ah già, sì, certo. No, non è vero, stava finendo la partita della Roma, comunque. Finendo o fine primo tempo? Perché io ho paura. Non lo so, mi sembra che è stato un gol quello che ci ha poco Era un gol, sì, io sono passata durante il gol. Io devo dire che mi sento molto in colpa a dire queste cose in diretta, perché io da ex tifosa della Roma molto molto, diciamo, affermata e assennata, ecco, adesso in questo momento non seguo più e quindi non so cosa succede, scusate. No, ma io pure non so più neanche un giocatore, comunque mi piaceva Montella, cioè già pensavo di dover combattere contro il parlare di Sanremo, se addirittura Virginia mi parla di calcio qua 100 Celle Avengers non sa più dove andare, non mi conosci affatto. Basta ragazzi, ma chiudiamo, tutti andiamo a casa, finito. Io penso che se c'è questa confusione è anche perché c'è stata un po' di maretta, lo voglio dire, perché noi comunque siamo sinceri, siamo una radio sincera e noi abbiamo sempre un brainstorming che ci precede la puntata, e niente, io volevo anche un po' fare le scuse ufficialmente alla redazione per essermi magari comportato un po' così, ma cioè il problema di queste cose è che poi quando uno racconta la campana sua, poi devi sentire la campana di quell'altro, scusa, no, scusa tu. C'è una soluzione a questo, c'è un drone spia che da quando noi non registriamo più le prove della scuola di musica si dedica a registrare le nostre assemblee. Che hai fatto? E quindi no, lui ci ha ascoltato e aiuto. Quindi la voce dell'innocenza di DR100. Amici, amiche, amiche, amici, è con estremo orgoglio che vi comunico che per la prossima puntata abbiamo un tema, un fil rouge. Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene. Sì, sì, un attimo di attenzione. Eccomi. Oh, Iron Man, ci sei anche tu, meno male. Scusate il ritardo. Avevo pensato di fare una bella puntatona sviluppando una di quelle nostre carrellate che famo sempre, ma ero intrippato a parlare di tutti questi film che hanno fatto sui artisti, sai, questi film tipo biografici, non so come si chiamano. A me state a sentire. Intanto si sa che ci fai farsi brainstorming e poi decidi come vuoi tu. A me fa un po' cagare. Ma ti senti male? Cosa ti succede? Come? Come? Dov'ero? Che è successo? Stavo dicendo, facciamo quindi un bel catalogone di questi, cioè che comunque abbiamo uno spunto per mettere musica poi di questi artisti, e poi una serie di riflessioni che... Au, poi tutta robaccia americana, au. Sì, selezione dozzinale proprio. Scusa, Viola, che cosa stai ascoltando? È la scuola di musica, pezzo di Sanremo di Achille Lauro. Metti via, questa è roba riserva. Ma che ve siete impazziti? Cioè, non è che per caso qualcuno ha pensato di fare la puntata su Sanremo? Sì. Manco di quello vuoi parlare? No. Solo le cazzate proprio. Di nuovo? Cos'hai? Svegliati. Che è successo? Siete cattivi. Ma no, ma no. Ma io che non... Che c'azzecca. Ma come? Io non vi sto dicendo che ci dobbiamo per forza occupare di questa cosa su cui ho lavorato cosa? Per tutta la settimana, assolutamente no. Io penso che abbiamo una redazione libera dove ognuno si esprime. Iron Man, chiudi tutte le porte. È arrabbiato con noi? Ma no, mi avete frainteso, vi dico. Iron Man, ora basta. E tant'è che appunto l'ordine fu ripristinato in via da Procida. ma comunque bellissimo Iron Man che spacca tutto con Rolls Royce sotto. A volte se la prende, soprattutto quando non lo salutiamo. Sì. Ok, salutiamo. Scusa, quindi Iron regia, ma mi alzi un poco il microfono che io continuo a non sentirmi per niente affatto, grazie. Alzate pure il basso. No, scusate, questa è una cosa che capisco solo io. Mi viene solo adesso in mente, grazie proprio al tuo appunto, grazie Gabri, che possiamo dare anche al pubblico un modo per lamentarsi, non solo a te. Come? Abbiamo dei contatti, abbiamo invece di fasi. Ah, certo. Certo. Scusate se adesso si sente la mascherina, No, mascherina a forma di filtrino. Levo subito la mascherina per comunicarvi quelli che sono i nostri contatti. Intanto, allora, per seguire la nostra diretta, già sapete che dovete collegarvi sul sito del Forte, il full www, a cui io tengo molto, fortefrenestino.net/radioforte, dove potrete trovare anche tutte le puntate precedenti di 100 Celle Avengers. E per seguirci in diretta video su Jizzi, potete entrare sulla stanza Jizzi, ma questa la dobbiamo ripristinare, in realtà è una bugia. Il vero però unico canale per comunicare con noi in tempo reale è quello di Telegram, e basta digitare t.me /100celleavengers e voilà, vi ritrovate nel canale aperto a chiunque appunto voglia commentarci, insultarci in diretta, e libero di farlo. Allora, io volevo chiedere scusa per Gizzi, perché chiaramente Gizzi non è più in funzione ultimamente per colpa mia, perché era un canale in più da seguire e come sapete io già faccio casini così, e quindi il maestro... Ah, quindi sei tu il responsabile. È colpa mia, è assolutamente colpa mia. Comunque lui deve alzare i canali, cioè sono pesanti, quindi se ne deve alzare troppi... Cioè... Tutti sti fader, io non ci capisco niente. Bisogna un attimino solidarizzare col settore tecnico invece di starsi sempre a lamentare. Oh. Bene. Detto questo... Che comunque dico sempre, cioè, spezzo sempre una lancia in favore del buon Silvanone. Insomma, no? A me sembra di sì, mi sta sempre a sostenere. Poi... Ti sono sembrato critico? A me no, non mi è sembrato. Poi insomma, c'è pure più libertà di vestirsi come ci pare, grazie al fatto che non c'è Gizzi. Boh, forse su questo eri solidale, non lo so. Assolutamente, no, io però più che altro, cioè, sei un grande estimatore, sei una furia sul mixer, quindi ti metto sempre le mani. Sì, sì, me le metti sul mixer. Comunque, ma adesso... vai, scusa, sì. Vuoi dire qualcosa? Di qualcosa a effetto, Gabri, vai. No, io volevo solo lanciare la mia solita critica, perché ho l'ansia da un po' di tempo a questa parte. Mi piace come ci dilunghiamo tantissimo all'inizio, tanto sono le 5, cioè abbiamo già 2 ore. E poi andiamo poi abbiamo una scaletta fitta di contenuti, arriviamo alla fine che arranchiamo. Allora, volevo dire questa cosa. Okay. Va bene, scusate, è sempre colpa mia che mi sono intromesso. Prego, andate. Ma parliamo di Sanremo. Mi piace questa rilassatezza in realtà. Prego, non lo dire. La colpa purtroppo è della redazione, che ha deciso di mettere cigni di Balagà verso la fine, per cui adesso avremo tutta questa scimmia del Gabri, perché oh, potrebbe no. andare lungo tutto quanto, e quindi no. Questo è soltanto il primo advertising che ci manda la... Era solo per lanciarti un là, maestro, prego. Ok, quindi torniamo al fil rouge abbracciato spontaneamente da tutta la redazione di 100 Celle Avengers. Molto. Fondamentalmente perché, appunto, come dicevo lì, è uno spunto musicale per dire un sacco di cose che poi riguardano anche il cinema, quindi per quello tutta la questione dei gerghi, dei termini gergali che sono utili, semplicemente per, appunto, sempre per andare incontro a Gabri che ha paura che andiamo lunghi. Se noi avessimo una serie di termini gergali non faremmo tutto quel minutaggio che invece in realtà è utile, Gabri, e avremmo già spiegato che per biopic appunto intendiamo, come abbiamo detto, biography picture. E già il fatto di chiamarla picture e non biomovie, per dire una cagata. Biomovie era proprio per essere. È vero, perché non si chiamano biomovie? Vedi come si fa ad andare lunghi? Perché ci correggiamo di un l'altro. È un fratricidio questa trasmissione questa sera. Ma... stavi dicendo, cara? Santucci, prego, dica. No, beh, io qui ho portato con me una rivista quest'oggi, si chiama 8 e mezzo, non la voglio sponsorizzare, mia. Però parla, guarda caso, proprio del biopic. Guarda caso. E la definizione che dà, sì, no, più che altro l'etimologia, la contrazione è data dalla contrazione dei lemmi biographic motion picture. Prego, volevo fare solo questa. Prima dei lamenti che andavo lunghi. Allora, Gabri, non contenta. Hai ragione. Non sì. contenta del suo buon impiego, vuole anche rubare il lavoro a Betta, che oggi in realtà dovrebbe rappresentare il nostro glossario. Però io, perché immagino, io idealizzo che, siccome sono spesso dei termini nerd, quelli che si legano al cinema, possano orientare nella sua giurisdizione. Sì, devi essere onnisciente, scusami. Ma il problema è che io sono vecchia, quindi in realtà con questi termini non ci ho mai capito non niente. Non dobbiamo dire queste messo... cose, perché il nostro ascoltatore numero uno non ama questi. È anziana, casomai. Vabbè, allora sono diversamente giovane. E visto che sono diversamente giovane, con questi termini, cioè, in realtà io faccio una fatica enorme per capire cosa voleva dire cringe. Ci ho messo tantissimo, il che è una cosa molto cringe in realtà. Ah, sì. Per dire. Cosa vuol dire cringe? Ma come fa? Ma tipo imbarazzante. Mazza, me lo rivenderò tantissimo. Hai visto che bella definizione? Una parola per dire cos'era cringe. Comunque ce n'era un'altra di parola che era appunto uscita fuori oggi con la dotta Gabri, che ruba il lavoro alla dotta Betta, e che andava un po' a spiegare questo famoso fil rouge. Io stavo dicendo biopicture, come vi dicevo, la picture, perché non è movie, perché la picture almeno a me mi fa pensare più al quadro, quindi appunto alla versione che l'autore regista in questo caso da dell'autore invece rappresentato. E cosa succede? Si verifica una geografia. Ah, già la stai sparando grossa. Siamo già alla agiografia. No, vogliamo dire che una delle cose, dei temi, appunto, è questo fatto di vedere come l'hanno fatto questo cazzo di rappresentazione dell'artista. Se l'hanno fatto bene, se l'hanno fatto male, se erano d'accordo i parenti, se era d'accordo lui, se era vivo, se era morto. Sì, certo. Tutte queste domande ce le porremo film dopo film. Sì, sì. La bravura, i contributi, il merito, diciamo, i meriti del regista, come anche dell'autore della scenografia, della sceneggiatura o del soggetto stesso, che sono tutti considerati proprio autori di un film, perché chiaramente danno un apporto creativo non indifferente, insomma, ciascuno con il proprio contributo crea un qualcosa. Nel nostro caso analizziamo proprio quello che viene creato sulla vita di artisti, in questo caso di musicisti. E, la geografia in particolare, che non è la materia della vita che... dei santi. Esatto, per estensione partiti. Poi trasferita anche a ambiti, giusto? Ambiti, sì, ma in generale con un termine della letteratura mutuato poi in vari ambiti. Scusami, per cui è l'esaltazione. Una pippa a geografia. Con una G sola, mi raccomando, a geografia. Esaltazione della vita di un personaggio, ecco, delle sue gesta in questo caso. Ma molto... quindi il fil rouge è il Garzanti, non è, sì, il biopic? Sì, appunto, siamo scaduti. Ovviamente quando precisiamo, poi siamo molto precisi. Comunque il fil rouge purtroppo, come sempre, ci portava a fare una lunga, disamina. Insomma, di avere un catalogo, ognuno voleva parlare di un film, voleva parlare di una cosa, tutti sempre entusiasti e spontanei. Comunque, dal grande calderone, la prima domanda è: in che ordine? In che ordine? Ordine cronologico? Ordine cronologico della storia? Cronologico del racconto? Alfabetico? Ebbene, signori e signore, abbiamo un vincitore per tutte e tre queste categorie, per cui ci ha tolto d'impaccio, perché alla A di Amadeus abbiamo appunto il film Amadeus, che è uno dei biopic forse meglio riusciti, no? Il primo, sì, abbiamo detto. Che altro, nessuno imiti il presentatore. Vi prego. No. Però le giacche... Allora, non è che per caso voi state alludendo a un altro Amadeus? No, di questi periodi, maestro, capito, è un filo diretto, è normale. Cioè... Sta di fatto che noi eravamo più di questo. Wolfgang Amadeus, nonché anche Mozart. Wolfgang. Scusa, l'ho detto all'inglese, invece Wolfgang. E dicevo, vince perché il film è dell'84, quindi tempo del racconto, giusto Gabri, non ti distrarre, e invece il tempo della storia mi è abbastanza, cioè è più antico di quelli che andiamo a analizzare oggi, perché appunto tratta della vita dello sconosciuto Mozart. E ci fornisce subito un esempio di distorsione della figura reale di Mozart, quindi viene a noi quando magari ci chiediamo: ma come lo fanno questo fatto? Allo stesso tempo, per quanto mi riguarda, perché pure per me poi è stato uno dei primi che ho visto, è dell'84 il film, e, per quanto mi riguarda anche è una rappresentazione molto, come dire, forzatamente di posizione, cioè non è che dice ha detto alcune cose che cioè ha proprio dato un'immagine di Mozart che rivoluzionava l'immaginario comune, e soprattutto poi faceva cascare magari anche qualcuno più giovane, anche se riferito ai giovani questo passaggio di testimone di Mozart è relativo, vale per gli adulti come per i giovani. Sa di fatto li avvicinava alla musica classica, eventualmente a me me l'hanno ovviamente propinato a scuola. Sì, anche a me, alle medie. Sì, anche a me. E bene o male, l'incipit era... Ma su quale figura storica famosa puoi scrivere? Non lo so. L'uomo ragno? Su, Bart, ci si può divertire. La storia è come un Luna Park. Al posto delle giostre ci sono date da ricordare. Tutti quelli che sono vissuti sono barbosi. Barbosi? Che c'è di barboso in un rocchettaro strafico vissuto intensamente e morto giovane? So che è un trabocchetto, ma sentiamo. Come giovane prodigio, questo noto musicista ha sbalordito tutta l'Europa nel XVIII secolo. E questo è successo a molti, di fare questa fine, anche se poi appunto il film, come ho già detto, chi non ricorda per esempio la risata idiota o vari elementi che... Sì, era un po' caricaturale, diciamo. Che spingeva, così. No, ma anche appunto forzature, deviazioni vere e proprie rispetto alla realtà, che poi appunto... Mamma, questa mi ricorda molto il film Amadeus, storicamente impreciso. Mozart ha lavorato sodo e Salieri fu un compositore rispettabile. Cioè, per dire che poi anche nei casi che andremo a vedere ci sta sempre il docufilm del dotto che si vuole informare su come erano veramente le cose, sta di fatto che poi la gente magari vede più facilmente il film che non andarsi a Rai 5 non è che c'è sempre stata e quindi niente, Mozart per me è stato, cioè Mozart, scusate, Amadeus versione rivisitata di Milos Forman è stato per me questo, ma non è stato solo per me, è stato uno di quelli che tutti noi ci ha un pochino, sì. Stimolato, per non, sì, dire, ecco... avvicinato anche un po', sì. Avvicinato alla musica classica. Alla musica classica e anche fra di noi, per cui c'è chi, come chi mi sta alla sinistra... Fremo. Che sta fremendo, sta scalpitando... Perché? Perché è una persona, a mio dire, abbastanza competitiva, ma in questo frangente lo voglio dire in senso buono, se fosse possibile, e cioè nel senso, cioè, del più. Lei perché è romana, no? Per chi non fosse romano, er più corrisponde più o meno al guappo, al capoquartiere, insomma, della delinquenza. Er più riferito a er più veloce, er più forte, er più... buono. Momento Lucarelli questo, in cui si parla banda della Maiana. No, e quindi er più, lei, cioè Virginia, nella mia percezione, durante 100 Cell Avengers, dice sempre che una cosa è o er primo... O er più, o, mi ricorda un po' un amico mio che diceva sempre il migliore amico mio di Arcinazzo, il migliore amico mio, non capendo che l'espressione migliore amico, a parte che è antipatica, cioè comunque la puoi dare a uno, no? Cioè c'è un migliore amico e poi che comunque è una cosa snobbista, però invece lui diceva proprio il migliore amico mio di qua, il migliore amico mio, vabbè, niente, se tu facessi la lista delle volte in cui io ho detto che è il mio film preferito dopo Jurassic Park, ti renderesti conto che è più vero delle volte in cui l'ho detto di altri film. Io farò di più, farò anche un montaggio di tutte le volte che l'ho detto. Comunque questo era un modo per cederti la parola mettendoti a disagio. Oh, grazie mille. Allora, sì, perché adesso inizierei a parlare un pochino di Amadeus e in maniera molto veloce, perché appunto, come mi era stato già imputato, è effettivamente uno dei miei film preferiti in assoluto e sono rimasta folgorata proprio il periodo delle medie, e quindi andando veloci farei una velocissima disamina. Grazie ragazzi. Allora, calcolando che stiamo parlando di biopic, volevo precisare innanzitutto che Amadeus, appunto film dell'84 con la regia di Milos Forman, è basato su uno spettacolo teatrale di Peter Schaffer, in cui veniva visualizzata, diciamo, su questo palco la grande invidia immaginata dallo sceneggiatore, appunto, di Antonio Salieri nei confronti di Mozart. Chi erano questi due personaggi nel periodo storico in cui sono nati? Salieri era il compositore di corte, quindi diciamo era la persona più competente dell'impero, a detta dell'imperatore. Dell'imperatore stesso, che poi era un mecenate comunque, quindi era un imperatore che parlava e mangiava molto musica e arte in generale. Mentre Mozart era l'astro nascente, quindi molto giovane ma assolutamente appunto eccezionale. E Salieri, in quanto persona iper competente nel suo campo, aveva capito tutto quanto e aveva iniziato, soprattutto nella mente dello sceneggiatore dello spettacolo, a provare invidia verso questa figura storica. Quindi che cosa possiamo dire del film? Sicuramente non è un film ispirato alla vita reale, non è un film che segue delle vicende che sono storicamente accurate, ma abbiamo una visione molto accurata del periodo storico in cui ci troviamo, e soprattutto due cose sono assolutamente accurate. La prima è diciamo l'ambientazione del film, ovvero tutte le parti nei teatri, girate nei teatri, sono state girate nel teatro di Praga, dove Mozart debuttò col Don Giovanni. E la seconda è l'illuminazione. hanno usato solo ed esclusivamente illuminazione naturale o candele per tutto il film. Non sono state utilizzate luci artificiali. E quindi niente, diciamo che non avendo a disposizione delle scene da paragonare e delle cose che possiamo visualizzare del periodo, possiamo però vedere quanto invece è stato comunque accurato questo film. E io farei una piccola introduzione, un piccolo discorso anche sul fatto che c'è un evento che è stato raccontato nel film che è realmente accaduto, probabilmente non così. E diciamo fra poco lo manderemo. Questo evento, diciamo, racconta quando Salieri creò una marcetta in onore di Mozart, che si presentava a corte per la prima volta, e Mozart la prende e la fa diventare un'aria delle nozze di Figaro. Questo è già successo ed è veramente successo, ma sicuramente non è successo come nella scena che andremo ad ascoltare in questo momento. La tenga, maestà, se vuole, io l'ho già tutta qui dentro. Come? Dopo un solo ascolto? Io penso di sì, sì. Sentiamo. Si ripete, no? Qui non è molto efficace, non crede? Ha provato a... Se fosse un po' più... O così. Ecco. Sì. Meglio, non crede? Nord del nerd. Piccola pillola incursione su questa cosa. E in realtà era un'altra cosa, però mi è venuta in mente una cosa che volevo dire. Il piccolo Mozart, quando aveva 3 anni, è partita una mezza sigla. No, è solo un teaser, non ti preoccupare, è di passaggio, vai. No, mi è venuta in mente una scena di Lady Oscar, ragazzi, perché su Lady Oscar a un certo punto c'è una scena in cui appare Mozart, proprio perché per la storia che quando aveva 3 anni, era molto piccolo, già sapeva suonare il violino, era bravissimo, suonò a corte e in quell'occasione chiese la mano di Maria Antonietta, già sì. Piccolino. È citata nel ragazzi. Film, ah, puoi sposarmi vero. Sì o no? C'è! È vero, c'è. Comunque, a parte... Scusate, io sono nerd. Virginia non la preghi. Ma lo hai rivisto o è tutta a memoria? Tutta a memoria. Vabbè. Cioè, ragazzi, due film su cui non chiedere mai nulla a Virginia. Sì. Jurassic Park e Amadeus. Ah, ok, chiarissimo. Già. A parte il suo preferito. Ci siamo. Allora è vero. A parte questo, c'è anche da rispondere a una delle sue aniche domande sui biopic, cioè, ma chi l'ha suonato? Oh. Pare che all'interno del film di Amadeus i pezzi presentati siano stati completamente risuonati dalla Academy of St. Martin in the Fields, che fu fondata a Londra e diretta da Sir Neville Mariner, un'orchestra particolarmente interessante perché si tratta della stessa che ha eseguito le musiche del Paziente Inglese, un film del 96 con Ralph Fiennes, bellissimo, e anche di Titanic, film che vabbè dai conoscete tutti, che vedete, cioè sono stati quelli che hanno fatto, è stato un onore suonare con voi. E poi non hanno più fatto niente, allora. Quelli che stavano sul ponte Signori, è stato un privilegio suonare con voi. Ah, potrebbero. Quello. Non so se erano loro veramente. Però qualcuno suonava, eh. Potevi cavalcarla questa cosa. Sì. Ma già, beh, dai, diciamo di sì perché era divertente. Vabbè. Comunque ringraziamo Betta che comunque sarà costantemente impegnata in questa puntata in cui abbiamo bisogno del nerd. Grazie maestro. E ci darà vie più delle chicche, delle integrazioni a corredare il nostro fil rouge che va avanti, perché sennò rimaniamo su Amadeus. Io lo so che Virginia potrebbe parlarcene dire, per tutta se la volete. Puntata, no, per carità. I costumi. Io stesso ho il caos in testa perché veramente mi sono fatto uno shampoo di queste chiacchiere in questi giorni e quindi appunto mi viene più spontaneo parlare del, un pochino del, del perché nel, nel mio essere mi è avvenuta questa cosa. Quindi rientra in quella rubrica che anche lei sarà costante, che si chiama Importa a molti, acronimo IAM. Ringraziamo gli Happy Noise che hanno registrato questa sigla al volo apposta per questa rubrica. E io ti ringrazio sempre per mettere le sigle a tradimento, ti amo. Ma per le orecchie dici? No, per i feeder. Ah, chiedo scusa. Comunque, vabbè, era per dire che si parte sempre dal mio... E quindi vi volevo dire di quella volta di recente che incontrai un giovine e sentivo questo giovine parlare di un film che aveva visto e di questo che cantava molto bene con i denti, i baffoni, insomma a un certo punto intuisco che il giovine sta parlando di qualcuno che forse conosco e prima di andare lì e redarguire il giovane col solito fare antipatico che hanno quelli quelli di una certa, purtroppo ormai bisogna dire le cose come stanno. Questo pallone. Comunque, prima che io potessi levare la critica al giovine, mi sono reso conto, mi sono fatto un esame di coscienza, è passato un treno di pensieri, un treno di ricordi e ho capito che il meccanismo mi riguardava, che l'avevo subito anche io. Comunque, il dentone di cui parlava di cui parlava il nostro amico era ovviamente Freddie Mercury e si parlava quindi di Bohemian Rhapsody. Che è un po' uno degli ultimi usciti e anche uno di quelli che ha fatto più soldini a livello di... Chi ha parlato? Sì, sì, è del 2018, vinse anche l'Oscar come miglior protagonista, il caro Rami Malek, che interpreta egregiamente, direi, sì. Freddie Mercury. E apre un po' la questione che interessa a molti, che riguarda anche la difficoltà nel riprodurre queste opere, queste biopic, perché poi un conto appunto è interpretare Bettino Craxi è un conto è fare un artista, quindi c'è il problema: come fanno a trovare uno che gli somiglia e che al limite canta pure come Freddy? Che ce l'ho? Cioè, voglio dire, sarà un attimo, fa un casting, cioè, si trova. Io sinceramente invece l'ho trovato sempre impossibile, ma non solo per Freddie Mercury, che oggettivamente è una bella ricerca, ma anche per tanti altri che poi andremo a vedere, invece diciamo che ci hanno preso, cioè l'attore che è trovato per interpretare mica è perfetto, rasenta un po' la perfezione, cos'è, quegli attori perfezionisti. Nel caso invece di Bohemian Rhapsody, nonostante bellissimi film se ne possano dire tante di cose, io in questo momento intanto affronto una cosa che riguarda i soliti rompicoglioni, cioè i fonici, coloro che subiscono i traumi fonici, e questa è la sigla. Sei fregato. Oh, che cazzo state dicendo? Andiamo, sono il vostro fonico. Siamo nella valle, bello, ci sono un sacco di fonici qua. E E niente, mentre Gabri mi distraeva per traumi fonici. Con i microfoni aperti. Con i microfoni aperti, quindi. Scusate. Ah sì? Vabbè, ma cioè, scusate, Gabri è abituata agli studi professionali, proprio, quelli dove c'è dove ci sta il fonico che apre e chiude, sa lui quando. No, quando c'è la traccia, non è... ci sta bene su traumi fonici. Comunque, a traumi fonici io ho semplicemente empatizzato. Cerco di andare di corsa, Gabri, di empatizzare col fonico al quale è stato detto, anzitutto, che. Si tratta di Paul Massey. Al povero Paul è stato detto: niente, devi fare un mixaggio di sto film che non deve essere un docufilm, perché poi se possiamo dire una cosa di Bohemian Rhapsody è che effettivamente è un biopic molto moderno a livello di mezzi, e quindi è stato possibile farlo sembrare allo stesso tempo realistico al punto da sembrare vero, ma senza sembrare un docufilm dove magari nelle scene pregnanti usi le immagini di repertorio. È tutto molto ricostruito, infatti poi una delle domande che ci faremo nei vari film che andremo a vedere è: come cazzo hanno fatto a fare sta scena con tutta sta gente, per esempio? Ma domande banali del consumatore medio. In questo caso invece la domanda è tecnica, perché il povero abbiamo detto Paul ha dovuto praticamente mixare tre sorgenti. Questo è quello che rende particolare questa roba. Cioè, lui aveva il buon Rami Malek, colui che ha interpretato fisicamente Freddie Mercury, e che appunto parliamo soprattutto delle scene in studio quando fanno tutta la storia del pezzo. E lui ha cantato delle cose, ha fatto i parlati, ovviamente ha cantato delle cose, dopodiché c'è un'altra voce di un cantante che gli fa da praticamente doppiaggio e che tendeva a cantare come Freddie, ma soprattutto ha potuto attingere a un tesoro di tracce di repertorio dei... È successo qualcosa. Che cosa? Tutto bene? Tutto allora, bene. Occhio a avvicinare la cuffia a... La cuffia al microfono. Che è successo? Tutto bene? No. Don, sì, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don. Allora, niente, c'è un sabotaggio. Volevo dire di non appoggiare la cuffia, cara Viola, al microfono. Credo che anche l'altra volta sia successo qualcosa di simile. Ah, sì? Avete risolto? Sì, il sabotaggio. No. Vedete, non ave gizi, però. Adesso possiamo riaprire Viola, dici? Riapriamo Viola? Potevamo passare inosservati. Abbiamo avuto un trauma fonico durante la rubrica. Se sto attaccato, basta dirmelo, fatemi cenno. Esatto. C'è bisogno di staccarmi una orecchia. O fate finta che non si sente. Però sono contento che sia successo a traumi fonici. Mi sembra. Comunque cioè, siamo coerenti. Sul pezzo, assolutamente. Mi sono scordato assolutamente. Le tre sorgenti. Niente, la terza sorgente era quella che mi interessava, perché fondamentalmente, oltre a empatizzare con lui che avrà dovuto farsi un bel lavoro, ho anche invidiato questo fonico che si è trovato appunto a disposizione, perché i diritti c'erano, Gabri, questo film si poteva fare, sì. Erano tutti d'accordo, e quindi erano da tutte le pizze, tutte le tracce nascoste, le take venute male, le Freddy che dice no, rifamola, tutte queste cose qua, e quindi soprattutto le parti canore, quindi lui le ha fatte con questo mixaggio a tre, che non deve essere stato uno scherzo. E detto ciò, siccome io sono un professionista e vado corto, cerco un pezzo di questi artisti che sia adeguato alla radio, e penso a questo. Pensa che, capito? Perché ce lo ascoltiamo. I Queen, Radio Gaga. We'll be right back. Radio Forte, 100 Celle Avengers, sempre in diretta alle 17.43. Andiamo avanti con questo incredibile catalogone di filmoni tratti da vita di artisti, possibilmente musicisti. Biopic, come diceva il traduttore. Hai ragione, accorciamo. Biopic, a proposito di biopic, andiamo avanti. Vi metto intanto già la musica, che poi chissà quanto tarderà a palesarsi per quello che deve essere. Comunque noi la usiamo come sottofondo per parlare di, ecco, Rocketman. Altro mirabile film. A proposito di coloro che ce la mettono tutta per cantare, parlo degli attori, gli attori che interpretano. Mentre prima abbiamo parlato dell'artificio per eccellenza, in questo caso, come in altri casi di cui andremo a parlare, si tratta di attori meticolosi e comunque bravi, cioè, che non è che si impara proprio in due giorni, e che ce l'hanno cantate tutte le canzoni, in particolare questo. Tyrone Egerton, il quale è stato, si è proprio capato Elton John, nel senso, sì, l'ha scelto, sì. E questo per dire, per voce, introdurre anche il fatto che in taluni casi il nostro interesse è, come abbiamo detto, che ne pensa la committenza. In questo caso la committenza è l'artista stesso, è ancora vivo e se fa un po' il suo autonarcisismo, quindi il narcisismo non è tanto del regista, magari pure, però sicuramente dello stesso artista, che quindi può anche vigilare, non può poi rompere il cazzo se non gli piace il film, come invece fanno i famosi parenti, insomma, quelli con cui poi ha a che fare, per esempio Gabri, quando quando ci stanno diatribe per questi motivi. Insomma, questo è Tyrone Egerton, appunto, che tutto sommato, sì, ha reinterpretato perfettamente alcune indimenticabili canzoni dell'artista ed è riuscito quindi a conquistare numerose generazioni questo Egerton, grazie alla sua mirabile interpretazione. Come dicevi, in effetti lo stesso Elton John lo ha proprio scelto per la interpretazione del suo personaggio e ha dichiarato che era così importante per me, ha dichiarato Elton John, che la musica che ho composto e registrato fosse cantata da Tyrone e volevo che mi interpretasse, perché volevo che mi interpretasse in tutti i sensi, sia attraverso i testi di Bernie, parla di Bernie Taupin, poeta e musicista britannico, e sì, attraverso la musica, quindi non solo con la recitazione. E infatti in questo caso, appunto, se poi il film verte su una cosa, su un aspetto o su un altro, non gli si può imputare, per esempio in questo caso diciamo, non spoilerò niente perché è l'inizio del film, però insomma l'espediente è un vecchio Elton John che dalla clinica di rehab racconta, mediante questa incredibile tecnica del flashback, la sua vita, così, in due speech, sai, nella comunità quando si parla: ciao, sono Elton, ciao Elton, e lui attacca sta pippa di tutta la sua vita, come Amadeus. Come a dire che comunque ha voluto incidere anche sul fatto di riprendersi, del, insomma, sì, del deviare le droghe, insomma, è tutto un discorso. Ma suo, l'abbiamo detto che il regista di Rocketman è lo stesso di Bohemian Rhapsody. Sì, Dexter Fletcher. O meglio, in Bohemian Rhapsody era co-regista con Bryan Singer, ma nel caso di Rocketman appunto era Fletcher, sì, lo stesso Fletcher, quindi nel 2018 esce con Bohemian Rhapsody e l'anno successivo con Rocketman. Come a dire che diventano specialisti, diciamo, poi del biopicismo, su infatti artisti, io poi sono arrivato a paragonarli a film sui supereroi, questi sugli artisti, perché bene o male alcuni elementi narrativi li ritrovate un po' uguali, cioè l'inizio sconosciuto, poi la scoperta di avere un superpotere, poi la prima comparsa col costume ancora non completo, poi il momento di crisi e alla poi la battaglia muore. Finale, no, non muore, battaglia finale, che è anche assimilabile al concerto finale, Live Aid per esempio, vedi tu, le citazioni precedenti. Comunque appunto è un po' diventato, un po', cioè chiaramente un business. Se poi mi sono incuriosito e ho scoperto che ce n'erano così tanti di biopic, soprattutto negli ultimi tempi. Nonostante che poi il cinema in sé per sé vive da poco tempo, relativamente poco tempo rispetto alle altre arti, però insomma mi ha fatto pensare sia male che bene, perché da una parte è deprimente questo che ho detto, insomma, del farli tutti uguali, se pensi che stanno rappresentando artisti appunto di per sé diversi, vite diverse, arti diverse, gli fanno tutti uguali. Dall'altra comunque ho trovato una funzione, perché appunto, come dicevo prima, invece di dare quello scappellotto educativo al giovine di cui citavo prima, perché perché gli imputavo di non conoscere Jim, sì, ciao, di non conoscere spoiler di me stesso, di non conoscere Freddie Mercury, perché per me era impensabile, è tuttora impensabile così, che tu non lo sai, in realtà sei nato dopo, non, è giusto che tu non lo sappia, questo ti favorirà anche nell'essere slegato da vari così dogmi e vincoli eccetera. Dopodiché mi stai un po' sul cazzo, e quindi lì per lì mi stavo per arrabbiare, ma poi ho pensato che avevo fatto lo stesso, già l'avevo detto prima. Con chi? Con, se lo trovassi, se trovassi mai un giorno il sottofondo nel momento in cui serve, con ecco, già che sentite sto sospiro, capite che non è stata una cosa solo mia, non è stata una cosa solo mia, è stata, cioè, questo che è il film di cui sto parlando, è il film sui Doors, mi ha fornito onestamente, senza fare quello che io conoscevo già prima, conoscenza di chi era Jim Morrison, per esempio, e speculando, poi speculando parecchio il paraculissimo Oliver Stone sul personaggio dello sconvortone e appunto l'artista poeta maledetto, ci ha acchiappato un sacco di gente per un sacco di anni, ha creato proprio un'iconoclastia, non so come si dice, insomma, santini di Jim Morrison, magliette che si confondevano con quelle di Che Guevara, gente, ma soprattutto gente che si appuntava i testi delle canzoni, anche dette poesie. E io, quando si parla di poesia, sento di dovermi abbastanza fare indietro, e quindi non so se posso mettere in pausa per mettere la sigla. Ma no, continuiamo così, maestro. Senza sigla. No, non posso interrompere. Non sì, no. la vogliamo mettere alla fine. Vabbè, la metto alla fine di questo, metteremo la sigla. Comunque, stiamo entrando in Music and Poetry, perché noi sì, questa parte la onoriamo con... No, ma io sono contentissima che c'è questo sottofondo. Oggi, cioè, sono proprio fuori di me. Voglio che tu sappia che volevo mettere l'altra canzone, quindi tutto questo è perché, cioè, non volevo... Okay. E allora parliamo un altro po' così. No, nel senso, non ti volevo causare... No, volevo mettere l'altra dei Doors e te la volevo lasciare questa per dopo, ma ho sbagliato, okay. Quindi ormai... È andata, non lo so, che vogliamo fare? Vogliamo, stavi dicendo, no, ma parliamone pagine... no, un po'. Delle pagine di diario, stavi parlando, no? Abbiamo costretto la maestra Viola, ecco, a portare io, il suo infatti, diario. Infatti, oggi non sono in veste di maestra. Lei che chiede mi i diari ai suoi studenti. Cioè, io mi sento adolescente, ragazzi, oggi. Siamo tutte con te. Siamo allora, tutte. Ho portato il mio diario dei favolosi anni 2000. È o bellissimo. Come direbbe Amadeus. Non quale? 2000. Vabbè. Niente, quindi sì, ho portato questo diario perché appunto è carico di aforismi e citazioni del grande Jim, e anzi, come dicevamo anche con Gabri, addirittura ci sono frasi che sono firmate Jim Morrison, ma non si sa se sono realmente di Jim, sì, Morrison. Sulla pasta col tonno non ci va il parmigiano. Ecco, Jim Morrison. Sì, a un certo punto tutte noi adolescenti o preadolescenti attribuivamo ogni frase che ci passasse per la testa, così, sì, una frase ti passa per la testa, Jim Morrison, Jim firmato Jim Morrison. Cioè, così non sbagliavi, capito? Vabbè, meglio così, perché ragazzi, noi c'avevamo Jim Morrison, i ragazzi d'oggi c'hanno Fabio Volo. No, ma io avevo... Non parlare male di Fabio Volo, però non in questo caso. Io avevo le sorelle e vibra i pensieri. Io avevo, scusate, le sorelle maggiori delle mie amiche che avevano i quaderni che ogni anno poi ricopiavano questi aforismi sul diario, capito? Quindi ogni pagina, sì, cioè è una cosa assurda, sì, raga, sì, veramente. Sì, sì, sì. Era il compiti dell'estate. Sì, i compiti dell'estate, perché poi il diario comunque, ecco, te lo compravi verso fine agosto e poi quindi c'era queste due settimane ancora di festa, di vacanze, e quindi ti iniziavi a scrivere il tuo diario con, ecco, queste frasi, no? Ne leggo una. Non potete capire quanto è contenta Viola. Allora, io sono mentre sfoglia. Allora, io sto rimpiangendo un po' Sanremo. Vabbè, ci però sarà ti tempo. Ti chiedo solo di poter mettere la sigla prima che tu legga i nostri reperti importanti. Sì. E niente. E niente, quindi sigla, maestro. Lasciatemi leggere. Leggere. Ho voglia di sentire questa poesia. Ed eccoci qua. Allora, leggo giusto un paio di aforismi dal diario perché non posso non chiuderlo senza averlo fatto. E quindi Questa sera ho fatto un sogno. Ho sognato di vivere. Chi è? Fabio. No. Ah, c'è pure il quiz. No, è dove? Jim Morrison. Amadeus. Cavolo. Allora. Prova un'altra. Un'altra. Da piccolo giocavo con l'erba. Adesso la fumo. Questa non so se è Jim Morrison. Questa per esempio potrebbe non essere Jim Morrison. Questo mi sembra questa è Osho. Mi sembra. Poi quest'altra. L'uomo è un animale nobile. Non ferirlo, uccidilo. Non lo so. Questo è Jerry Scotti. Sono saporismi praticamente. Viola, ce n'hai almeno una sua veramente. Ma certo che ce l'ho, ragazzi. Ma comunque devo fare anche un'introduzione. Qua era per cazzeggiare. Hai ragione, scusa. Scusate. Ho dubitato. Ho chiuso il diario degli anni 2000, ok? Ah, c'hai più di un diario. Certo, questo è quello degli anni 2000. Ha portato la. Allora, ragazzi, parliamo un po' di Jim Morrison, appunto, ormai. Perché non farlo? Allora, il 3 luglio del 1971 moriva all'età di 27 anni appunto Jim Morrison, che è un poeta, si può definire poeta, dall'animo difficile e i suoi versi, diciamo, si aprono in feritoie in cui possiamo intravedere quindi un diciamo un Morrison inedito, perché comunque conosciuto soprattutto per i testi delle canzoni. E la poesia di Jim si avvicina all'espressione maledetta di poeti come Rimbaud e Baudelaire, passando per diciamo il frenetico parlato della Beat Generation. È chiaro che lui è stato un animo tormentato e sconvolto, e quindi non poteva limitarsi a fare il cantante, e quindi infatti la sua, diciamo, l'artista, questo genio, vede nella poesia la sua vocazione, forse più che nella musica. E quindi Jim Morrison, diciamo, ha scritto moltissimo poesie, aforismi, appunto canzoni, e molta della sua produzione, diciamo, che purtroppo non ci è arrivata neppure. Nelle sue poesie scrive non solo di morte, ma anche di sesso, di libertà e della sua nazione, l'America, che lui riconosce come un paese moderno ma allo stesso tempo molto antico. Diciamo che Jim Morrison è può essere considerato come un poeta appunto maledetto, a cui si rifaceva appunto parlando di dei poeti che ho citato prima. E diciamo vorrei parlare anche di un altro poeta a cui Jim Morrison si rifà, anzi diciamo che il gruppo, il nome della celebre band The Doors viene proprio tratta da una citazione di questo poeta maledetto, William Blake, e che appunto troviamo appunto alle porte della percezione, e la sua frase più emblematica è: se le porte della percezione fossero spalancate, ogni cosa apparirebbe all'uomo come realmente è, infinita. È nostro dovere tenere conto del fatto che diciamo William Blake appunto rappresentasse quasi la follia, e tuttavia come non ammirare, diciamo, un uomo che ha contribuito, diciamo, a questa mitologia maledetta. E voglio anche recitare una poesia di Blake. Allora, nel tempo della semina impara, in quello del racconto insegna, d'inverno godi, guida il tuo carro e il tuo aratro sopra le ossa dei morti. La strada dell'accesso porta al palazzo della saggezza. La prudenza è una ricca e ripugnante vecchia zitella, corteggiata dall'incapacità. Chi desidera ma non agisce, nutre la pestilenza. Il verme tagliato perdona l'aratro, butta nel fiume chi ama l'acqua. Lo stolto non vede lo stesso albero del saggio. Chi non ha luce in viso mai potrà essere stella. L'eternità è innamorata dai prodotti del tempo. Ma come fa? Bellissima. Qual è il titolo, scusa Viola, di questa poesia? Questa è... Se lo hai sotto mano. Sì, no, questi sono i proverbi dell'inferno di William Blake. Ah, ok, grazie. Sì, per quanto riguarda invece Jim Morrison, per non lasciarlo, diciamo, nel baratro di un diario, di aforismi brevi, che non si sa neanche se sono tutti suoi... E ho trovato, diciamo, facendo delle ricerche, che in realtà è uscita poi una raccolta postuma 20 anni dopo la sua morte, di queste, diciamo, di alcune poesie inedite, e quindi ecco, ho scelto questa, I connettori. I diamanti splendevano come vetri in frantumi sulla strada a mezzanotte, e tutto in cima ai muri erano zuppi, luccicavano lustre le loro pupille latte. Allora da lontano apparve un gnomo, balenò un angelo sui piedi di pelo, si trasmutò in un fiume di viale. La falla in attesa prese a tremare. Io stavo a guardare da un motel, con il mio whisky in mano, lei respirava piano, era caldo il vento, in una camera, qualcuno veniva al mondo. E adesso, concludendo, con alcune... Ma bomba! Grazie. Con grande maestra. Con ecco, alcune parole di Jim Morrison, che diceva: sentite, la vera poesia non dice niente, elenca solo delle possibilità, apre tutte le porte e voi potete passare per quella che preferite. Ed ecco perché la poesia mi ha letta così tanto, perché è eterna. Fin quanto ci sarà gente, la gente potrà ricordarsi parole e combinazioni di parole. Nient'altro come la poesia e le canzoni ha la possibilità di sopravvivere ad un olocausto. Nessuno può ricordarsi un intero racconto, nessuno può descrivere un film, una scultura, un quadro, ma finché ci saranno esseri umani, le canzoni e le poesie possono continuare. La mia poesia cerca di arrivare a qualcosa e liberare la gente dai modi limitati in cui vede e sente. Ed ecco, amici, io sono felicissima, grazie. Grande Viola, grande. Grazie mille. E quindi, andando a completare, diciamo, ciò che riguarda questo film di cui, sì, ormai abbiamo ascoltato anche Breaking Truth di Other Side, è un altro di quei film in cui l'attore si è prodigato, il vecchio Val Kilmer ha voluto cantare il miglior Batman, il miglior Batman di sempre, ma molto molto bravo, molto ma bravo. Anche tanti altri film, e niente, gli è piaciuto a parte dei Doors, perché bisogna dire, come da ultimo, che il vecchio Ray Manzarek, che è anche detto il tastierista, quello che fa ne, quindi non proprio l'ultimo, gli è sempre stato sulla minchia il film, e lui e Val Kilmer, cioè comunque non ha voluto incontrare Val Kilmer, mentre gli altri gli hanno anche detto che effettivamente la sua voce ingannava, rendeva, cioè sembrava quasi lui. In quel film ne canta alcune, poi nella soundtrack che è uscita ne canta tal'altre, e effettivamente la gente magari è andata avanti anche spesso ascoltando le versioni sue senza saperlo, così come in altri casi. Comunque Eh sì, caro Iron Man, a volte succede che la dedizione porta a questo. Comunque niente, Ray Manzarek era l'agente Cooper, io non l'avevo mai capito. Anche realizzato dopo che l'hai detto tu. È rimasto in occulto anche con quegli occhialetti. Comunque niente, questo comunque è un esempio di quando poi amici, parenti non sono contenti. Non volevo fare, ma è uscita così, del film. e in questo caso di Oliver Stone, che comunque ci fece un grosso colossal, cioè proprio il film è The Doors, il gruppo che ha scandalizzato l'America, che gli ha sputato in faccia la verità, era una roba del genere. Il trailer spingeva molto in pratica proprio sullo sconvoltone, e era il vecchio Ray Manzarek che, se non altro, c'ha dalla sua, che era veramente amico suo, ha detto che appunto nei due giorni in cui è stato con Oliver Stone e gli ha cercato di raccontare chi era Jim Morrison, Oliver Stone stava per la sua, non gliene fregava niente delle cose che gli diceva, e stava in fissa che voleva farlo vedere come quello che poi più o meno ricordate, quello che poi anche a me mi ha influenzato, questo fatto di provarle tutte le droghe, intendo di fare, non dico che l'ho seguito, però comunque aveva molta molta influenza sui giovani. Io e il mio amico Pippo batterista di Happy Noise, non potevamo ancora drogarci, fumavamo delle sigarette di Drum, sapete quando si approfitta di quel fatto della prima sigaretta, le prime sigarette di quando cominci proprio a fumare, che ti fanno ti sballano più di bei tempi. A quel tempo non ci potevamo permettere altro. Visto il film dei Doors, abbiamo comprato il nostro primo Drum. Che bello, vabbè, questo era veramente un grande troppo. Gabri mi guarda malissimo, no. È per questo che io vado avanti con volevo andare avanti con qualcosa di più leggero, ma in questo caso andremo a parlare di... Sì, è abbastanza leggero, perché a parte... Ok. Semplicemente per citare uno che invece è l'antitesi, cioè Dennis Quaid, l'artista che ha impersonato Jerry Lee Lewis nel film Great Balls of Fire, non ha cantato. C'è da dire che ci ha provato, cioè nel senso che aveva detto voglio fa io, da paura, poi pare abbia ascoltato le registrazioni appunto, che state anche ascoltando adesso, di Jerry Lewis, abbia detto no, forse, forse non ce la faccio. E quindi in questo caso andò a finire che la soundtrack con cui io pure sono un po' cresciuto, mi è venuta la, così, la voglia anche di fare casino col pianoforte, senza saperlo fare, e nella soundtrack lui canta soltanto uno dei pezzi, gli altri è tutto Jerry Lee Lewis, che anche lui è ancora vivo, che non è poco perché comunque sono passati diversi annetti, e come Amadeus, e quindi anche lui tutto sommato e tutto, ha potuto vigilare sull'opera, diciamo, e questo è il pezzo dove cantano insieme lui e Dennis Quaid. .07 su Radio Forte 100 Celle Avengers. Questo stacchetto era proprio per andare di corsa, perché siamo lunghi ed è con questo entusiasmo che io quindi, senza che ci sia una sigla, senza che ci sia una rubrica, continuo il fil rouge. Sbrigati. Allora niente, praticamente ci spostiamo a parlare delle biopic italiane, perché era di interesse anche della redazione questo aspetto, diciamo, della traduzione, ecco, scusate, non mi veniva. Io ho attaccato tante pippe spesso sul doppiaggio, anche solo delle serie TV, tutto questo, la realtà cambiata nella traduzione, eccetera eccetera, tutto questo in questo caso non c'è. Pensate quante cose nell'immaginario della vita dell'artista possono essere decise dal regista che te non lo sai proprio, come so, che ne so, gli stati del sud, gli stati del nord, l'Oregon. Se invece te la ambientano in provincia di Bologna, in provincia di Firenze, e ti raccontano la storia di questo o di quell'artista italiano, già almeno per me c'è un'altra cosa. Dopodiché, hai più appigli, sì, ti hai più appigli, sì, e anche nel giudicare la, perché poi quello stiamo facendo un pochino, la performance eventualmente dell'attore che ha impersonato l'artista, diciamo un po' più di, non lo so, cognizione di causa, mi pare. Poi magari sì, magari anche no. Anch'io. E quindi, siccome abbiamo qualcuno che le ricerche le sa fare, no come me che dico cose a caso, esatto, io semplicemente introducendola con un teaser intanto, anzi, il nord, passo la parola a Betta. Ah, parlando di biopic italiani ne citiamo almeno un paio. Uno è sicuramente La bambina che non voleva cantare, che tratta la storia di Nada. Come diceva il nostro Suono, questi biopic hanno la caratteristica di introdurre un po' i giovani alla nuova, a autori che non conoscono. E questo è un caso un po' interessante, perché al di là della storia di Nada, che immagino conosciate tutti per il pezzo che sta passando, famosissimo Amore disperato, bello, è un po' un multiplo biopic di introduzione per i giovani. Poi introduce a vari musicisti italiani, grazie a varie incursioni di Mina, Lavanoni, Paoli, Claudio Villa e così via. Da giovani, ovvio. Ciao, sono Gino. No, quello è Gina, capito? Tutto così. No, è vero, fanno cioè sia il fan service per i vecchi, che ormai ho imparato questa parola, che appunto raccontare ai giovani, no? No? Eh sì. Prego, prego. E un altro caso interessante è quello del film Il Principe Libero, che invece è sul nostro Fabrizio De André. È un film del 2018 in cui De André non solo è stato interpretato da Luca Marinelli come attore, che non so se vi ricordate Marinelli, che è famoso per... Sono la pecora, sono la vacca e agli animali... Vai, no, tranquillo, è un De André per farti da sottofondo. No, pensavo che avessi una sorpresa, non lo so, una citazione di Marinelli. No. È un attore che è stato reso famoso dal personaggio dello Zingaro in Lo chiamavano Gigrobo d'acciaio, tra l'altro è un altro filmone, guardatelo, bellissimo. È un po' il Favino del momento, Bel Marinello. Esatto, no, esatto, è proprio il Favino per Diabolic. E anche per Diabolic. Proprio perché ne ha fatti tanti, è Favino. È diventato il Favino della situazione. Visto Favino, che non sentiamo più ultimamente troppissimo parlare di Favino, abbiamo Marinelli, che è anche un po' tristemente famoso per il famoso meme che venne fuori da quel film, in cui alza il dito e dice: io solo una cosa voglio sapere. E hanno fatto un 40 miliardi di meme con questa cosa, seguita dalle domande più strane, tipo ce va il parmigiano sulla pasta col tonno. E ha già risposto Jim Morrison, le chiede pure lui. Esatto. Ma la cosa, non si fida. La cosa interessante è che Marinelli ha interpretato De André anche a livello di performance vocale. Infatti vari pezzi mostrati nella pellicola sono stati cantati da lui, anche con una certa maestria, e non mi sembra una cosa semplice parlando di un mostro sacro come il Fabrizio Nazionale. E maestro, se mi aiuta con un pezzo faremo sentire... C'è già la folla che scalpita. Il pescatore di Marinelli. Di Marinelli, è la storia vera. All'ombra dell'ultimo sole s'era sciopito un pescatore, e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. E chiese al vecchio: dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame. E chiese al vecchio: dammi il vino, ho sete e sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane, per chi diceva: ho sete o fame. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la verso il vento, poi via di nuovo verso il sole, dietro le spalle un pescatore. Dietro le spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile giocato all'ombra d'un cortile. La la la la la la la la. Vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato. Ma ora basta con le, con le pillole. Un vero Northern Nerd. Sigla! Eccala. Quanto pretendi. Oh, non mi riesce mai. Io ero sceso giù. Ma lo sapevi che l'avrei il detto così? Il mio pinguino di ceramica nello studio guarda sempre verso il mare. Volte 100 celle Avengers. C'è una rubrica sotto che si chiama Northern Nerd. Come l'ha chiamato? Cioè faccio così bene ste gaffe che sembrano vere, eh? Invece... che, che vogliamo creare il personaggio di me che mi scordo le... E invece è tutto scriptato. Buonasera piccoli nerd, eccoci qui anche oggi. Invece del solito consiglio risponderemo un po' a qualcuna delle domande su Aniche a proposito dei biopic. Una delle domande a cui volevamo rispondere è: quali difficoltà ha presentato la rappresentazione cinematografica del film? In molti casi, infatti, come diceva anche Suano, non è facile partecipare a un biopic d'attore, perché è necessario riprodurre le caratteristiche dell'artista di cui si parla anche a livello fisico. Ad esempio, nel caso di Sid e Nancy, per interpretare il giovane ed emaciato Sid Vicious, Gary Oldman si sottopose a una rigida dieta a base di pesce bollito e melone, che è pure una combinazione strana. Però in ogni caso la dieta fu tanto estrema da causargli un ricovero in ospedale a causa dei troppi chili persi. Un'altra curiosità su questo film è che pensate un po' chi registrò un celebre video provino per il personaggio di Nancy, proprio la nostra Courtney Love, nel quale si dice... Ma avrei giurato! C'era? Non la sapevo, no, ma ci avrei giurato, guarda! Ma te lo ricordi anche perché in realtà poi fu scritturata. Durante quel celebre provino esclamò in maniera perentoria, si dice: io sono Nancy Spungen. E il regista rimase talmente impressionato da quell'addizione che voleva quasi prenderla, ma aveva già promesso alla produzione di scritturare un'attrice professionista esperta per la parte della coprotagonista. Alla fine però la scritturò comunque per una parte secondaria del film, e infatti lei è il personaggio di Gretchen, una delle amiche tossiche di Sid e Nancy a New York. Vedi che c'era? Torna tutto. Curiosamente poi la Love sarebbe stata anche in seguito paragonata più volte alla Spungen in diverse occasioni durante il suo futuro matrimonio con Kurt Cobain. Un'altra domanda a cui vorrei rispondere è: nel caso dei biopic realizzati mentre l'artista era ancora in vita, il risultato fu gradito? Questo non è purtroppo sempre accaduto. Nel caso di Notorious, il film su Notorious Big, il film si concentra sulla vita dell'artista, ma molti altri furono coinvolti come figure secondarie, come Tupac Shakur, Lil Cheese e Lil Kim. Quest'ultima in particolare non gradì il risultato, definendo poi il film orribile e di cattivo gusto, ma soprattutto privo dell'aurea di Lil Kim, e fece molta polemica su quella che riteneva una rappresentazione piena di bugie. Una cosa simile accadde per Nina, pellicola del 2016, biopic su Nina Simone, nella quale Zoe Saldana, l'attrice di Gamora nei Guardiani della Galassia, interpreta proprio Nina Simone, famosa cantante, pianista, scrittrice e attivista per i diritti civili statunitensi. La Saldana, di nascita portoricana, fu messa al palo, poiché non essendo veramente scura di pelle, aveva dovuto far uso di diversi trucchi cinematografici, tra cui una tuta e un naso e dei denti finti, per assomigliare a Nina. Gli eredi chiesero alla Saldana di non pronunciare mai più il nome di Nina, in vita sua addirittura. Anni dopo lei si scusò per tutto questo dicendo che non avrebbe mai dovuto interpretare quel ruolo e che avrebbe dovuto fare tutto ciò che era nelle sue possibilità per far sì che venisse scelta una donna nera per interpretare quel ruolo. L'ultima domanda a cui voglio rispondere non è tra quelle indicate dal suonone, ma vorrei comunque proporla perché me la sono posta io stessa durante il briefing di questa puntata. Cioè, ma non potevamo di Sanremo? No, sì, che più o meno è stata la domanda di tutti. Sì, ragazzi, questo briefing è stato un po' tipo. È stata la corazzata Potionkin. Dai, che c'è la rettore. Esatto. Chi ha fatto palo? La domanda è: ma siamo sicuri che sia proprio un biopic? Infatti, cercando informazioni su questi prodotti, a un certo punto ci siamo imbattuti in tutti insieme appassionatamente. E la domanda è stata d'obbligo: ma non era un musical? E la risposta è stata che si trattava veramente di un biopic, perché la Maestra Maria è ispirata a una persona realmente esistita. Tutti insieme appassionatamente è tratto dalla celebre commedia musicale e teatrale The Sound of Music, a sua volta ispirata a La famiglia Trapp, un romanzo. Pompini, Pompini! Esatto! Un romanzo autobiografico che parla di Maria Augusta von Trapp, una cantante e scrittrice austriaca. E dopo tutta questa bella carrellata di infornata di informazioni dotte sui film, direi che possiamo passare oltre. Grande Betta, una bella carrellata. Assolutamente sì. Dotta Betta, come grande. Al solito. In questo caso noi abbiamo comunque uno step indietro, perché abbiamo una rubrica che si occupa sempre di biopic italiani, di cui parlavamo prima, e che è la rubrica dei solisti. Sigla! E a solisti quest'oggi, con la scusa di rispondere al fil rouge, parliamo di Io sono mia, che va un po' a completare l'elenco almeno preso in esame dei film italiani, che parla appunto di Mia Martini, un film del 2019, e anch'esso con l'incredibile mezzo del flashback, con una Mia Martini intervistata nel 1989 mentre stava per salire sul palco di Sanremo. Rilascia questa intervista, dalla quale viene tratta più o meno ecco, perché chiaramente è un caso in cui l'artista non è più in vita, come sappiamo, e quindi poi si potrebbe anche andare a scoprire quanto e se aveva, sicuramente c'erano determinate autorizzazioni. Sì, certo, mi corregga se sbaglio. No, avvocato. Sì, presumibile di sì. E niente, noi per la categoria solisti, cioè praticamente dove parliamo di coloro che fanno parte della scuola di musica ma fanno lezione singola e poi si esibiscono al saggio in esibizioni singole, parliamo di Vanessa, la nostra Vanessa grandissima che salutiamo, che al saggio del 2019, sempre incredibile, l'uscita del film coincide con Tempo della storia, Tempo del racconto, esegue e non finisce mica il cielo e non finisce mica il cielo al saggio Summer 2019. Ascoltiamo Vanessa. Che sorrida un po' sicuro, Stai ascoltando Radio Forte e questo è Centocelle Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Dalla scuola di musica performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta mai. Centocelle Avengers, la musica si difende. Radio Forte, Centocelle Avengers, la musica si difende. Ogni tanto diciamolo, lo slogan bellissimo coniato all'inizio della nostra vita. E niente, prima sempre facendo passi avanti, passi indietro, passi avanti, passi indietro, citando il film Sid and Nancy, che tratta la vita di Sid Vicious, oltre che così simpatizzare per il film, anche se prende sempre lo spunto brutto per farci il film così sul tossico, in realtà comunque è anche uno dei, diciamo, dei personaggi, diciamo, fondatori del punk in generale. Ho anche pensato che è un bassista, no? Influente, sì, certo. E quindi non so se questo mi autorizza a un certo punto, sempre quando l'avrò trovata, incredibile, mo è andata persa, non è vero. Sigla! E ben trovati su Colpi Bassi, è iniziata la rubrica sui bassisti. E visto che stiamo parlando di biopic e quindi di cinema, come non parlare oggi in questa rubrica di un bassista ma anche attore? E quindi oggi ci concentreremo sulla persona di Flea, il bassista dei Red Hot Chili Peppers, facendo un breve ma succoso excursus anche della sua filmografia e non solo della sua discografia con i Red Hot Chili Peppers. Allora, ci ritroviamo con un Flea che si trasferisce in America, ma in realtà parte dall'Australia, quindi Flea è un bassista australiano, icona del bassismo mondiale, e che con il suo stile rock funky, diciamo che ha influenzato il modo di suonare il basso e soprattutto di slappare di tantissimi bassisti fino a oggi. E quindi, insomma, c'è poco da dire sull'influenza che Flea ha avuto nella musica, ma c'è un po' più da dire sull'influenza che invece ha avuto e sull'apporto che ha dato al cinema. E infatti ci ritroviamo nel 1983, immediatamente con un Flea attore, prima ancora di uscire con il primo album dei Red Hot Chili Peppers, ovvero Red Hot Chili Peppers del 1984, l'anno in cui è uscito anche Amadeus. Ci ritroviamo nell'83 con Flea, detto Mike B. The Flea, in Suburbia, che è appunto un film dell'83, un thriller, ed è la prima apparizione che noi abbiamo di questa grande personalità. Dopodiché arriviamo all'89-90, in cui Flea interpreta Needles. Chi è Needles? Needles è un personaggio, diciamo, molto caricaturale, un po' una macchietta, che noi ritroviamo in Ritorno al Futuro 2 e 3. Bellissimo, adoro quella scena. Sì. Quindi ci potrebbe essere un gancio con Ritorno al Futuro, oppure noi facciamo finta che non ci sia nessun tipo di gancio con Ritorno al Futuro e McFly e Chuck Berry. No. No, yeah. Sì, se vuoi, sì. Torno indietro. Non ho detto nulla. No, facciamo rewind, fast forward, andiamo alla citazione che avevamo in testa di Michael J. Fox, sempre nell'ambito degli attori che ci hanno messo la voce, in questo caso anche la chitarra. E quindi niente. Tra i film c'era anche Cadillac Records, che, come diceva anche Betta, era multi-biopic. Perché ce li trovi a grappoli gli artisti, cioè ce ne trovi diversi: Etta James, Chuck Berry, di cui abbiamo parlato nei cigni di Balacà, e appunto citando la questione Michael J. Fox, che praticamente. Chuck e Marvin! Tuo cugino, Marvin Berry! Sai quel nuovo sound che stai cercando? Bene, senti questo! che era la famosa scena appunto relativa a, al, al Chuck Berry, a cui si restituiva un po' di dignità con questa storia. Beh, l'ha già spiegato Gabriele, non starò a ricalcare. Torniamo a colpi bassi. Quindi ringraziamo Michael J. Fox per grazie l'influenza per sulla domanda, musica comunque. Prego, non so cosa ti ho chiesto. Vai. Va bene, siamo agli anni 89-90, in cui appunto esce Ritorno al futuro 2 e Ritorno al futuro 3 con il nostro Needles Flea come attore, e contemporaneamente esce Mother's Milk, album diciamo che inizia la carriera effettiva dei Red Hot Chili Peppers. E, ci ritroviamo nel 1991, sempre con Flea attore, nel film Belli e Dannati, insieme a River Phoenix e Keanu Reeves. Io spero di averli pronunciati bene, ma io non so pronunciare niente. Rives. Ok, e da qui nasce un periodo di vuoto, diciamo, nel gruppo Red Hot Chili Peppers, perché dal 91 al, immagino, 98, ecco, sì, più o meno, noi abbiamo una grande sequela di drammi che appunto influiscono sul gruppo. La morte di River Phoenix, a cui Flea dovette assistere. E oltretutto l'uscita di Frusciante dal gruppo, la riabilitazione di Anthony Kiedis, e tutto questo, diciamo, fermò un po' il processo creativo musicale dei nostri beniamini di oggi. Nel 98 ci siamo ritrovati a diciamo, vedere un Flea che recita col botto, ecco, perché nel 98 ricomincia con una sequela di capolavori. Lo troviamo nel Grande Lebowski, lo troviamo in Paura e Delirio a Las Vegas, e lo troviamo in un non capolavoro, ma il rifacimento di Psycho, che insomma non è stato un granché accolto dalla critica. Ma come va? Ma non benissimo, ecco, fa non benissimo. Però io non posso parlare perché sono troppo influenzata, perché come avrete capito Psycho è il mio film preferito dopo Jurassic Park Amadeus. Sì, più o meno lo è, ma non lo volevo dire. Er più. E te devi da ritenere fortunato, perché sei un cacone. E Nino il cortello suono sporca con viacco. Prego, scusa. Comunque posso dire che non si può sentire Celentano che fa Romano. Se vi capita, andatevi a vedere Max Tortora da qualche parte che imita Celentano, che imita Rugantino. È meraviglioso. Hanno ammazzato il papa. Proseguo. Dopodiché, dopo il 98 e dopo questa sequela di capolavori d'attore, si dedica alla musica, e il suo gruppo, appunto i Red Hot Chili Peppers, sforna una sequela di capolavori anche lui. Diciamo, noi prima di ascoltare la carrellatona di capolavori che sono stati fatti dai Red Hot Chili Peppers, andremo a visualizzare anche il resto della vita attoriale di Flea. Lo ritroviamo in tantissimi video musicali, e, ad esempio nell'86 Fight For Your Right dei Beastie Boys, e nel 97 Jane Says dei Jane's Addiction. Io non so pronunciare le cose, fatemene una ragione. E oltre a tutti quelli dei Red Hot Chili Peppers, oltretutto lo troviamo come doppiatore e ospite anche in tantissimi film e serie di animazione. Lo troviamo nei Simpson, nei Griffin, in American Dad, nei Rugrats, e anche in Inside Out fa una comparsata come personaggio, appunto. E quindi niente, abbiamo più o meno concluso la carriera di attore di Flea, perché dal 2017 insomma ha fatto altri film come Baby Driver e Toy Story 4, e nel 2022 lo ritroveremo anche in un film accanto a Tobey Maguire, Margot Robbie e Brad Pitt, che si chiama Babylon. Ma adesso vorrei farvi ascoltare una carrellata veloce di capolavori dei Red Hot Chili Peppers dal 98 in poi, e dopodiché penso che ci sia il nostro laboratorio che li riesce ad omaggiare, no? A voglia, vado. Prego. Get E niente, quello che Virginia voleva dire è che tutto questo porta a un 100 celle a Marcord. Ricordati di te com'eri volante. Un'estate fa, l'anno vecchio è finito ormai. Un'estate fa, ti ricordi? Un'estate fa, tutti quanti stiamo già aspettando. Un'estate fa, è saggio che è un nuovo anno. Mi ricordo che anni fa, un'estate fa, ricordati di me. Dove per innervosire ancora di più Gabri, che aspetta Freme di fare la sua rubrica, metteremo appunto un saggio in cui la scuola di musica eseguì i Red Hot Chili Peppers. Per rimanere in tema, Scar Tissue. Sentiamo. Ma chi era la solista? Non lo so. Scar Tissue that wish you so. Sarcasmist and know it all. I close her eyes and I kiss you close. With burden of shame. With burden of shame. E niente, siamo diventati specialisti del fade out rapido fatto male quest'oggi a 100 Celle Avengers, per dare spazio a tutti, cercando di dare spazio a tutti, alle 18:38 di questo 5 febbraio 2022. Che cosa succede? Questa voce angelica intanto l'ho messa apposta per rimettere le cose a posto, e anche perché la vogliamo risentire. Io ho un'altra versione di questa voce angelica che si prodiga insieme a me e ad altri, insieme a 100 Celle Avengers, per partecipare a un evento di cui adesso andiamo a parlare. Niente, un pochino sono venuto a voi, cioè, anzi, se posso dire, proprio, vai, cioè, sono stato l'unico che si è visto Sanremo veramente sti giorni. Sì, io mi sono sempre addormentata, cioè, certo, lei sì, si è soprattutto addormentata ieri sera, e mentre questa, appunto, questo contributo va alla giornata radiofonica che ci sarà domani al Forte Prenestino, di cui noi ci facciamo anche un po' portatori. Esatto, grande, sì. Quando ci intendiamo siamo uno squadrone. Sì, saremo qui dalle 10 del mattino, domani, domenica 6 febbraio. Prego, prego, continua pure. Per l'iniziativa Antifestival promossa da ITLAD, che è l'acronimo di Io te l'avevo detto. E vi assicuro che non si parla d'altro, eh. Non si parla non d'altro. Non si parla da ieri a casa mia. Social. No, ieri a casa mia. Infatti, sì. Giulie, per esempio, era super entusiasta. Potrebbe essere anche che noi si faccia anche della chiarezza poi sull'evento, sì, perché poi è girato in vari. Arriverà comunque. Ho visto anche ragazzi entusiasti sul gruppo Sì. L'iniziativa sta spopolando, devo dire, in effetti. Ci giungono da ogni parte contributi, come forse quello che adesso pure noi diciamo un po' il suonone a... Diciamo che noi siamo, sì, siamo come un po' come dedicato. Pantani, come il grande pirata, cioè siamo siglisti. Ma come fa? Fatta la battuta. Noi facciamo le sigle, facciamo e quindi sigle. Abbiamo fatto questa. Ma che bordì? Io te l'avevo detto. Cosa? No, che pestata ambientale. Guarda che io te l'avevo detto. Non è... Io stasera c'ho già un programmino che non me caghe. Te l'avevo detto, no. Sfonda rossa radio a volte. Oggi presentiamo l'antifestival. Varietà per bimbi di ogni età. Ah, ecco, sì. No, beh, ma questa è proprio poi. Ma no, io, guardate, devo dire, mo stacco e me ne vado. Te l'avevo detto. Guarda, siete molto gentili, ma io non sono interessato. Ciao, ciao. Te l'avevo detto. Ma c'è sta Sanremo, Amadeus, Achille, Lauro. Te l'avevo detto, no. Sì. Nessuna che porterà. Che? Questa sera va, in onda il festival. Sì. Di chi non sopporta più nell'altro festival. Ah. Te l'avevo detto. Quando sarà la forte, saremo voi che non, con l'antifestival, partecipati sono, chissà chi vincerà questa varietà, che si chiama Vita. E niente, quindi facciamo volentieri pubblicità anche alla trasmissione di Amici Itlad, che ripeto, io te l'avevo detto, che va in onda su Radio Onda Rossa e che spesso, appunto, gemellata con noi, trasmette anche su Radio Forte. Speriamo nel calciomercato sotterraneo di comprarceli poi tutti sì, per noi. Esatto. Nel frattempo, appunto, andranno in onda sì. domani dal Vi Forte. Invitiamo, sì, volevo chiarire che insomma anche con loro ci ho parlato, insomma, viste che le adesioni, di portare più che altro voi stessi il vostro. La vostra presa bene, perché le eventuali appunto registrazioni che avverranno nella giornata prima della puntata, che ci sarà alle 6, saranno fatte alla cosiddetta Carlona, quindi non vi portate clavicembali eccetera, portate appunto allora, quindi le buone intenzioni, domani... ma soprattutto inviate, perché sì. se è possibile inviate nella call che poi sì, è sì, circolata. Quindi domani cosa accadrà? Social, sono, cioè ripetiamo quindi a beneficio di tutti domani i nostri ci sarà la puntata di Antifestival, puntata oh, speciale ecco. di Itlad dedicata all'Antifestival di Sanremo, quindi una visione critica che io con un po' di ipocrisia abbraccio, perché poi non abbiamo parlato d'altro. Un urlo anti-sanremese che viene chiesto. Un urlo anti-sanremese, tu sai perché c'hai il comunicato in testa già a memoria. Sì, esatto. Fondamentalmente raccogliamo, hanno fatto una call agli artisti per raccogliere appunto contributi di vario tipo registrati da mandare in onda durante la puntata, fare una specie di contest della cosa yeah. e eleggere addirittura forse un vincitore. Si parla di chissà chi vincerà e quindi chissà chi vincerà. Noi alla fine siamo fuori gara, abbiamo voluto fare la sigla più che altro di questo evento. Che strano, sì, perché, perché appunto siamo siglisti. Bene, però vi aspettiamo numerosi domani, ecco, saremo qui dalla mattina al Forte Prenestino, venite eventualmente a registrare, oppure mandate il vostro contributo sul, non ho con me la mail, ovviamente l'indirizzo mail, comunque. Trovate i canali per partecipare anche sul sito del Forte e potete leggere ogni dettaglio di questa iniziativa. Vi aspettiamo. E niente, di collegato a Sanremo come apertura, cioè avevamo appunto anche un video dance on the radio. Un velocissimo video dance. Era fondamentalmente legato alle coreografie che poi non si sono viste. Io volevo vedere parlare di quella di Emma, cioè la nostra Anita. Ma vedi, dannatela. Volevo dire Emma che ha fatto con la Michelin una curiosa coreografia in cui si piegavano. Ma scusami, io sto parlando di una cosa che non prima serve compete. Una sigla, però se su poi non già... mi compete e senza una sigla. Sigla. Batmo de gage. Bravo. Ma Virgi, che hai? Ti vedo giù. Ma come? Io avevo pronte le coreografie, i costumi, trucco, parrucco. E chi le vede mo ste cose? Ah. Senti io. Cos'è? Il musical senza la dance. Capito? Ok, Virgi. Capito. E questa veloce video dance riguarda appunto Sanremo, e come stava anticipando il maestro in questo momento, non ho abbastanza elementi per poter giudicare la coreografia di Emma e, su appunto sulla nostra, della nostra Anita, su Baby One More Time, ma perché ma pure a me perché sono state inquadrate sempre, diciamo, dalla vita in su, e quindi non sappiamo se quello che si è visto sul palco è effettivamente un rimando al nostro Michael Jackson. Ci informeremo e ne parleremo meglio. Io posso, scusa, posso dire questa cosa? Ho visto un no, non la posso dire. No, no, sì, ah, sì, la posso dire. Non lo so, dicevi no. Prego, prego, maestra, prego. No, volevo dire che ho visto un meme bellissimo di tutte e due, la Michelin e Emma, che praticamente stanno a Campo dei Miracoli con, insieme alla Torre di Pisa. Vabbè, niente, questo volevo dire. Bellissimo. Ah. Ho riso tanto. È perfetto, esattamente. Mm. Mentre... Ma invece... Mentre la video dance di oggi riguarda un semplice avvenimento, ovvero la partecipazione come ospite non più di una cantante, ma di una ballerina, che è Elena Damario, che esce fuori da Amici, mi sembra nel 2009, non vorrei sbagliare, che ha partecipato alla compagnia Alan Parsons Project, scusate, e questa ballerina appunto ha partecipato come ospite insieme ad Elisa nel rifacimento del brano What a Feeling di Flashdance. E tutto qui, questa è una video dance in versione mini. Ma mi è piaciuta veramente molto, tra l'altro, la l'esibizione di Elena Damario. Sì, devo dire è che ha dato una bella paraculata, devo sì. dire. Sì. Vabbè, comunque Elisa è difficile da affiancare in duetto. Vabbè, comunque la prima volta. Comunque questo ci porta a... No, non ci porta, ma ci porta comunque a passare oltre video dance. Torniamo on al the radio. Biopic, direi. Torniamo alle biopic, ma soprattutto andiamo a parlarne in termini legali. Sì, qualcosina. E quindi sigla. Ma non lo senti? Che è uguale ai cigni del Balagà. Ebbene, allora, grazie di avermi passato la parola. Sono il 46, andrò spedita. E torniamo un po' quindi al parlare al fil rouge della trasmissione. Quindi torniamo a parlare di biopic, e anche in occasione di Cigni di Balacà. Che diciamo, andiamo dritto al punto. Questa volta voglio parlare di un personaggio un po' leggendario. Ecco, parliamo mi concentro per lo più sulle istanze del popolo, diciamo così. Un personaggio leggendario, amato molto dal popolo, e parlo di David Bowie. Non ce l'abbiamo, wow, una... Sì. Un effetto di... Ah, solito. No, quanto pare no. E la morte di Bowie nel 2016, molti fan si sono rivolti, concentrati sui social. Eccolo, questo sottofondo ideale. Ti avevo messo un po' fade in, sì. Scusami. Perfetto. Volevo che l'atmosfera, vai. Per piangere ovviamente la morte inaspettata del loro beniamino. C'è stato d'altra parte però anche un sentimento particolare che è stato espresso e colto da taluni altri personaggi, come ad esempio appunto i registi di cui stiamo parlando in questa puntata. E ciò che il sentimento era questo, cioè che ha reso David Bowie più di una semplice rockstar, è stata proprio quella sua capacità di unire gli emarginati, di raggiungere tutti quelli che si sentivano diversi, di far loro sapere che non erano soli, ok, ma erano meravigliosi, preziosi. Ecco, quindi lui non si limitava a fare musica, ma questa sua presenza extraterrestre ha proprio rassicurato i suoi fan, e in particolare proprio quelli che si sentivano persi, incompresi, eccetera. E questo è proprio il sentimento della pellicola realizzata da Todd Haynes, questo regista, nel 1998, dedicata al glam rock, e il titolo è Velvet Gold Mine. Quindi mi piace anche dire che questo titolo me l'ha suggerito il suonone, ecco, maestro. Incredibile. Sì, incredibile. E che era inizialmente previsto come un film biografico più convenzionale, ma Bowie poi notoriamente disapprovò questo progetto. E quindi pensate un po' dal punto di vista legale, ecco, quello che, su cui io vorrei un po' concentrarmi, si rifiutò di concedere a Haynes i diritti sulla sua musica. E quindi ci troviamo con questo film che è Velvet Goldmine, appunto, che non ha vera musica di Bowie. E infatti lui all'epoca rifiutò perché riteneva che il film desse una visione distorta della propria figura. E infatti il film stesso suggerisce che gran parte dell'originalità della figura di questo artista di fantasia che è ispirato a, poi alla vita, a Bowie appunto, e sia stata rubata, presa in prestito, e quindi si rifiutò di, insomma, prestare la propria immagine, la propria voce alla colonna sonora del film. E ora ovviamente ci si chiede se questo fatto, a proposito delle domande come anche Betta se le poneva, ci si chiede un po' se questo fatto che Bowie non concesse i diritti sulle proprie canzoni sia stato da solo sufficiente per spegnere un po' l'entusiasmo dei fan. Perché infatti guardare una biografia non ufficiale che non è piaciuta neanche all'artista stesso, all'icona stessa? Beh, nel caso di Velvet Goldmine quelle restrizioni creative in realtà sono state la cosa migliore accaduta al suo regista. Perché liberato proprio da qualsiasi attrazione verso l'accuratezza storica, se mai ne abbia sentito poi la necessità, Haynes, il regista di Velvet Goldmine, esplora quindi gli inizi della carriera del cantante da un'altra prospettiva. E non cosa significa essere David Bowie, ma cosa significa essere un fan di David Bowie. Quindi usa questo espediente, non potendo, ahimè, utilizzare realmente le immagini, insomma, tantomeno la voce, soprattutto la voce di Bowie. Più recentemente, poi nel 2020, invece, quello che forse più tutti ricordano, un altro biopic dedicato al Duca Bianco è Stardust, vero Sonone? Sempre suggerito da te? Stardust, David prima di Bowie. Che si incentra invece sul viaggio negli Stati Uniti del cantante, in particolare sulla nascita del personaggio di Ziggy Stardust. Avevamo detto anche di metterlo Ziggy Stardust, mi pare. So che vedo che stai cercando una traccia, ma sarà una sigla. Sono il 51. Veramente lo volevo. Chiedo scusa. Eccolo. Oh, ecco. E a proposito di Stardust, quindi diciamo che anche questa pellicola non fu proprio estranea alle polemiche di tipo giudiziario legate ai diritti sulle musiche di Bowie. Infatti, come ebbe modo proprio di dichiarare il figlio di Bowie, Duncan Jones, sono piuttosto sicuro che nessuno ha garantito i diritti per la musica di nessun biopic su mio padre, altrimenti lo saprei. E come a dire, insomma, di fatto non ci fu mai l'approvazione della famiglia di Bowie per la realizzazione di questa pellicola. E quindi a questo ha portato naturalmente il film a non contenere le musiche di Bowie anche questa volta. Anzi, chiamo mio padre e mio fratello, che sono peggio. Ecco. E anche questo caso, quindi, un po' un minus, la mancanza della musica di Bowie deruba un po' il film di quella un po' veridicità, eccetera. Aspetta, mi sto andando un po' lunga, ma volevo anche esprimere questo pensiero, perché quando in realtà vedi un biopic, quello che ti aspetti, che è un po' forse quello che è uscito dalla puntata di oggi, ne abbiamo parlato lungamente, io speravo che uscisse anche un po' questo. Ufficiale. No, nel senso che tu hai anche un po' la sensazione di portarti qualcosa a casa anche come conoscenza. Ho visto il film su Bowie, ammazzo, ho scoperto anche tante cose su quell'artista, su quel musicista. Ma quindi quello c'era Rai 5. Esatto, più che altro forse conviene rivolgersi a Rai 5, specie in questo caso quando appunto, come nel caso di Stardust, il Bowie, o in questo caso gli eredi, non hanno mai acconsentito a che si parlasse dell'artista in questione, ecco. E quindi è necessariamente tutto un po' più, diciamo, fantasioso, un po' più creativo. Bene, io potrei anche concludere qua, già che vedo che l'orologio, le lancette corrono. Al massimo, ecco, mi concedo questa ultima citazione a proposito di biopic, che è di Mark Twain. Non è di Jim Morrison. E fa così: le biografie non sono altro che i vestiti e i bottoni di un uomo. La biografia di un uomo non può essere scritta. Mark Twain. Wow. Ma come fa? Bella. Ci ascoltiamo un po' di Ziggy, ci organizziamo per il finale. Che dire? Thank you. alle 18.54 di Corsa di Corsa su Radio Forte 100 Celle Avengers, direi che è il momento di Simply Sampled con Silvano alla mia destra. Sigla! Salve. Ascolta Tommy con una candela accesa e vedrai davanti a te il tuo futuro. Allora, Simply Sample questa, esatto. Simply Sample questa sera si occupa di un gruppo romano. Ma io non ti sento. Sì. Questo gruppo romano, perfetto, sono i Franks and Tass. Non a caso c'è questa base di sottofondo, perché chi è Frank? Frank è il cattivo di C'era una volta l'West. Quando Charles Bronson arriva e gli chiedono: chi ti manda? Ma Frank dov'è? Frank ci ha mandati. E si parte subito ad ammazzare tutti. Questo gruppo che cosa fa? Sono quattro persone, sono Frank Sandrello, che è un artista audiovisual, Mastro, il chitarrista, Orange, il bassista, e Frantic Beat, che è un beatmaker. Che cosa faceva questo gruppo? Questo gruppo faceva, dico faceva perché ultimamente non è uscito nulla, sono almeno sei anni che non esce nulla, e facevano delle performance audiovisive in cui praticamente prendevano i film, come in questo caso C'era una volta il West, e prendevano il parlato del film e tutti i rumori del film e li utilizzavano come sample, e lì ci aggiungevano delle basi musicali create ad hoc da loro. Basi che appunto avevano chitarra, basso, un beatmaker e tutto il montato del film, che era di questo Frank Sandrello. A questo punto, data la ristrettezza, direi di mettere invece un pezzo che ci fa capire meglio tutti questi sample in quanto è italiano, ed è Boris. Radio Forte 100 Celle Avengers, con ansia di completezza lanciamo anche l'ultima rubrica, i Beatles. Sica! Questo sarà il primo caso di rubrica più veloce della, della sua sigla. Bellissimo. Allora, di cosa parlerà oggi la rubrica più famosa di Gesù? Parlerà della biopic su John Lennon, ovvero Nowhere Boy. Nowhere Boy, andatevela a vedere, diciamo, è la storia dell'età giovanile di John Lennon. Ma visto che abbiamo molto poco tempo per parlarne, io andrei subito a parlare della visione che ha avuto il nostro Paul McCartney di questo film, ora pro nobis sempre. E, noi sappiamo che Paul McCartney, avendo parlato con lo sceneggiatore di questo film, si è risentito parecchio e ha detto che insomma alcune scene non erano mai avvenute, che sicuramente era un film basato sulla leggenda, e infatti sono riusciti a trovare un accordo nel fatto proprio che comunque fosse un film ispirato alle leggende e ai rumors, ma non soltanto, anche all'idea, diciamo, di come dire, la percezione basata sugli stereotipi di ognuno dei personaggi dei Beatles, ovvero George Harrison il silenzioso, Paul McCartney quello affascinante che risolveva le situazioni, né vero niente, e John Lennon invece il ribelle. E questa cosa ha fatto soffrire parecchio John Lennon nella sua vita, quindi insomma Paul McCartney e anche altri lo hanno trovato parecchio irrispettoso nei confronti di John Lennon, proprio appunto farlo vedere come esclusivamente un personaggio ribelle. Ma manca un minuto, ma noi citiamo alla fine Paul McCartney. Bravissima. Paul McCartney ha detto che l'attore era troppo basso e quindi voleva fargli mettere le zeppe. Cosa possiamo fare? Virginia, per la personalità, essere stata sottobotta. Abbiamo solo il tempo di dirci che questa puntata, come le altre, la trovate in podcast sul sito forteprogressivo.net. Che vi voglio bene, scusa Virginia, non succederà mai più. Niente, alla prossima, fra 15 giorni, concerto Celle Avengers su Radio Forte. E domani tutti all'Antifestival. Ciao!